balcone sento cantar una canzon d'amore. Io vuole te la ripete un bel garzone e battere mi sento forte il cuore e battere mi sento forte il cuore. Oh, quanto è dolce quella melodia, oh, com'è bella, quanto m'è gradita. Chi io la canti non vuole, mamma mia, vorrei saper perché me l'ha proibita. Ella non c'è ed io la vo cantar la frase che m'ha fatto palpito. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Vorrei morire con te al cielo di Dio, oh bella innamorata. Tesoro mio, qui sotto i nebidi ieri a passeggiare e lo sentivo al solito canto. Ora vorrei baciare i tuoi capelli neri,